l'obiettivo principale è stato quello prima del Covid di trovare un'attività nuova, innovativa, che attraverso delle azioni potesse sviluppare e consolidare le loro abilità, soprattutto quelle cognitive, sociali e Certo. relazionali. L'idea del bed and breakfast così mi piaceva proprio perché io vedevo all'interno dell'attività che loro potevano svolgere, per tutti, ognuno col suo percorso, la possibilità o di ampliare delle competenze o di consolidare quelle che loro avevano. L'altro, ovviamente, obiettivo è che noi siamo un'associazione a uno scopo di lucro, non abbiamo finanziamenti pubblici e che quindi un'attività come questa, che produce, speriamo, un reddito, rifinanzia una parte dell'associazione, che è quella che svolge le attività in Saragozza 65, che è la Casa delle Idee. Quindi avrà una duplice funzione. Da una parte impiega loro in attività concrete, che possono essere adatte anche a loro e possono anche sviluppare in loro nuove capacità. Dall'altra, ovviamente, un finanziamento per l'associazione. E quali saranno invece le mansioni dei ragazzi Le all'interno del mansioni dei B&B? ragazzi sono varie. Allora, ci saranno chi si occupa, per esempio, di controllare che tutta la parte, diciamo, più della biancheria, sia da letto che da bagno, sia in ordine, sia stata lavata, riordinata, eccetera. C'è chi si occuperà delle colazioni e quindi vuol dire rimettere tutto quello che serve per la colazione. Chi si occuperà, perché noi abbiamo una piccola libreria dove abbiamo raccolto in questi anni molti libri e quindi gli ospiti possono non solo leggere il libro, ma possono anche portarselo via. Quindi ci Bello. sarà un ragazzo o una ragazza che controllerà se i libri ci sono ancora, se devono essere cambiati. E poi c'è chi invece si occuperà, a seconda delle turisti che verranno, di far trovare magari delle riviste che possono essere nella loro lingua o di Bologna. L'idea è anche quella di fare delle esperienze, quelle che appunto si chiamano experience, per Certo. esempio di cucina, perché noi abbiamo un laboratorio di cucina fatto da un'educatrice e da Agnese e da Elena, che sono due delle nostre ragazze, quindi portare gli ospiti nella nostra casa, quindi Casa delle Idee di Saragozza 65, e per esempio fare un laboratorio di cucina con loro. Quindi, come vedi, sono tante le possibilità per cui loro possono essere impegnati. Poi ci sarà chi sta all'accoglienza, che quindi che cosa vuol dire registrare un utente, qual è il portale della questura, come vanno fatte tutta la registrazione e quindi diciamo usare degli strumenti che sono più quelli del computer o quelli anche multimediali che comunque loro sanno usare. E che limiti pensate di poter incontrare, visto la situazione Covid, che anche se una sua collaboratrice mi ha detto che avete già una Allora, abbiamo una prenotazione prenotazione per fine gennaio, questo certo. ci ha reso veramente molto, molto felici. Il limite è quello, credo, più dato dalla situazione dello spostamento in questo momento, perché questo appartamento nasce in una delle vie più belle di Bologna, quindi è chiaro che le fiere non ci sono, le mostre sono chiuse, quindi noi crediamo che comunque una volta che ci sarà un po' più di apertura, il turista, quanto turista, possa sceglierci. Contiamo anche su però persone che comunque devono raggiungere Bologna per lavoro. Ecco, la rete che stiamo creando è anche quella di dire non aspettiamoci solo il turista, ma magari qualcuno che per Certo. lavoro ha bisogno e questo credo che sia un appartamento che accoglie bene sia il nucleo o la coppia, ma anche il singolo. C'è il wifi, abbiamo messo tutta una serie di strumenti, ci sarà un PC disponibile per chi magari deve trasferire, stampare delle cose, noi possiamo stamparle di fronte perché abbiamo l'associazione, quindi cerchiamo di dare una serie di servizi che possono essere utili a più persone, sia il turista ma anche la persona che invece viaggia per lavoro.